Santo Stefano forma un quadro particolare che volta un periodo, quello della restaurazione, in realtà. Ho intitolato appunto dall'esperienza del catastro la direzione dei lavori di attestato, perché mi interessava vedere, non era possibile isolarlo del tutto, ma comunque diciamo rivolge l'attenzione in modo particolare a questa corruzione post napoleonica. Ecco, mi sembra di poter dire in premessa che due sono così tra virgolette le leggende auree che hanno consegnato alla storia dell'immagine orografica della Toscana Felix. Nate ambedue nell'ambito delle storiografie illuminista, hanno avuto grande fortuna nel corso dell'Ottocento, fino a diventare un topos storiografico ben vivo nella prima metà di questo secolo, e cui echi sempre si fanno ancora sentire in studi recenti. Penso in primo luogo a quella della cosiddetta tradizione sperimentalista toscana di origine galileiana, che avrebbe interrottamente percorso e verificato il rapporto tra potere politico, istituzionale e pratica scientifica, fino al periodo leopoldino e poi anche fino alla restaurazione, soprattutto grazie a questo ruolo privilegiato di trasmissione scientifica svolta dagli uffici, e su questo c'è tutta una bibliografia che conosciuta. Ma penso anche all'altra tradizione, all'altra leggenda, diciamo, quella della tradizione liberista, che vuole la Toscana dopo le riforme leopoldine, ma ancora durante il periodo francese, anche qui la restaurazione, e ancora dopo l'unità, culla del libero commercio e dell'agricoltura, felicemente e saldamente fondata su una struttura sociale ed economica che si esprime nel rapporto mezzadrile e che politicamente costituisce il terreno di coltura del modernismo toscano. Molte cose si potrebbero dire, sono state già dette, quindi non potrei dirle, su queste due tradizioni storiografiche, fondamentalmente solidali tra loro nel trasmettere alle soglie dell'unità e anche dopo un'immagine della Toscana orgogliosamente conscia di una propria pretesa superiorità. In questa sede mi preme sottolineare, soprattutto, che ambedue hanno significativamente a che fare con la nostra particolare storia, quella appunto degli ingegneri toscani. Direi anzi che ogni approccio a questa storia rischia di risentire, direi, di una specie di, chiamiamola così, distorsione percettiva, se non fa due operazioni preventive. In primo luogo, quella di collocare il problema nell'ambito di queste, delle due problematiche storiche che sono effettivamente sottese a queste tradizioni storiografiche, e cioè quella del rapporto tra elaborazione e trasmissione scientifica e assetto istituzionale, soprattutto in relazione all'emergere o al non emergere di figure professionali, e quella del ruolo delle nuove figure professionali in rapporto ai modelli e agli assetti politico-amministrativi e territoriali. In secondo luogo, l'altra diciamo, avvertenza, quella di sottrarsi, nell'altra operazione preventiva che mi sembra doverosa, è quella di sottrarsi a questo un po' fascino sottile del luogo comune storiografico, utilizzando proprio gli innegabili fattori di continuità che ci sono, utilizzandoli però come sollecitazioni verso un'interrogazione critica, problematica della realtà storica, piuttosto che come motivi di attenta spiegazione o peggio ancora di esaltazione geografica. Non mi sembra inutile questa recitazione, perché ho presenti studi recentissimi, direi della fine degli anni Ottanta, soprattutto nell'ambito della sistemazione territoriale, penso ai convegni sulla Toscana di Lorena, dove effettivamente questa esaltazione, questa tradizione, così, queste tradizioni vengono richiamate insieme a molti quanti. Detto questo, volevo citare due frasi. La prima è questa: la libertà intiera è la sola maniera di incoraggiare e aumentare l'agricoltura, da cui dipende tutto il resto. Questa è una frase che scrive Pietro Volto nelle relazioni sul governo della Toscana. La seconda è, dice così: la ricchezza e prosperità della Toscana è affidata al risultato delle agrarie speculazioni, cui un vincolo commerciale si opponga. Questa è una frase invece di Giuliano Frullani, il matematico che stila praticamente in modo proprio l'istituzione del corpo degli ingegneri. E questa frase sta in premessa a una relazione in cui si propone l'istituzione del corpo degli ingegneri. Tra queste due frasi, così simili tra loro nella forma e nella sostanza per il comune terra liberista e fisiocratico, corrono circa 30 anni di una rivoluzione. Evidentemente, al di là di tante trasformazioni, forse proprio grazie ad esse, tra la fine del periodo leopoldino e la restaurazione, nella società toscana si consolida effettivamente una struttura sociale ed economica che si esprime anche a livello istituzionale con sostanziale continuità. Come noto, dobbiamo al governo Leopoldino tutta una serie di importanti provvedimenti, i cui effetti, condizioneranno nell'immediato e nel lungo periodo la società toscana e da cui non possiamo prescindere anche ulteriormente. Ricordo in particolare le iniziative liberistiche come l'abolizione del sistema doganale in favore del libero commercio, delle derrate, l'abolizione delle corporazioni, di mestiere e l'abolizione di tutti gli ordinamenti protettivi delle manifatture. E quelle volte a favorire l'agricoltura e consolidare la proprietà terriera, come le annividazioni, che vendite dei grandi patrimoni mondiali degli enti, la riforma comunicativa, grazie alla quale viene riconosciuta priorità all'agricoltura essendo proprietà terriera. A questo proposito ricordo che il proprietà terriera viene riconosciuto un uso esclusivo anche del sottosuolo, oltre del suolo. Queste scelte di politica economica rivelano anche un versante più prettamente istituzionale che inaugura un diverso rapporto tra centro e periferia di grande capo. Esso si concretizza in particolare nell'abolizione di alcune magistrature centrali, di impianto medicio e di cultura repubblicana, che costituivano il canale dell'amministrazione e del controllo territoriale, ma la cui autorità insisteva diversamente sulle varie zone del Granducato per effetto delle diverse giurisdizioni. Quindi l'abolizione di queste magistrature in favore di quattro organismi di sovrintendenza comunicativa, sottoposti al controllo, tutti quanti, sottoposti al controllo centrale della Segreteria di Finanze. Uno per il territorio di Firenze e Pistoia, uno per quello di Pisa, uno Siena e l'altro per Stefano. E alla dipendenza di queste camere, che viene stabilmente incardinata, camere che si chiameranno in un caso camere, un altro ufficio dei posti, un altro ancora, beh, comunque, ristorniamoci i nomi delle magistrature, sono di fatto delle camere di sovrintendenza comunitaria. All'indipendenza di queste camere viene stabilmente incardinata una burocrazia tecnica costituita da ingegneri che precedentemente operavano, ma con qualifiche e specializzazioni diverse, erano gli agenti di strada, erano gli ARI, eccetera, nelle magistrature soppresse. Questo personale viene dunque per la prima volta riunito, normalizzato nelle qualifiche, articolato gerarchicamente e sottoposto al controllo di un supervisore tecnico, che è il capo ingegnere. E questa è la Salvetti, un allievo Ferroni, qui si aggancia, diciamo, il collegamento con il matematico. E soprattutto tutto questo personale viene messo continuamente in rapporto con le comunità, in particolare attraverso il rapporto. Amministrative locali, di nuova istituzione, che operano a livello comunicativo per il controllo dei lavori pubblici dati in accollo e che si chiamano provveditori di strade e fabbriche. Una figura che in realtà è una figura più amministrativa. Sul piano della formazione, del reclutamento e della selezione, il governo Leopoldino sceglie tuttavia un modello formativo centrato sull'università per l'aspetto teorico e sull'apprendistato disseminato per quello pratico, evitando volutamente, per coerenza con la scelta anticorporativa, di dar vita sia a una struttura formativa specifica e centralizzata sul genere delle core che a un corpo professionale, nonostante questa, la sollecitazione a fondare una scuola specifica venisse proprio dal Ferrone, però viene completamente disattesa. Scelte che certamente non favoriscono né l'autonomia né la definizione del ruolo sociale dell'ingegnere, ma semmai ne accentuano, direi, la dipendenza istituzionale, anche in relazione ad altre figure amministrative e comunitarie. Allora, l'idea di dar vita a una generale catastrazione di tutto il territorio granducale è anch'essa parte dell'internet quale autonomia. Essa non muove da un generico intento conoscitivo, ma dall'intenzione di basare il sistema impositivo, che riconosce nella terra la fonte primaria della ricchezza, su una giusta ripartizione della tassa prediale nelle comunità. Ritroviamo di nuovo qui i cardini della politica lorenese, preminenza della proprietà fondiaria e potenziamento complessivo delle autonomie comunitative. Questa idea verrà tuttavia iniziata, cioè questa operazione verrà iniziata in realtà tra molte difficoltà e resistenze solo sotto la dominazione francese, cioè a partire dall'agosto 1810, nonostante venga deliberata fino al 1808. In realtà, alla fine del periodo napoleonico, i 9 ingegneri verificatori, 3 per dipartimenti, tutti francesi a parte uno, i geometri e i misuratori avranno completato le mappe geometriche particellari, le matrici, di solo 40 su 242 comunità, ma avranno in compenso fornito lo schema di impianto del successivo catastro toscano. Il sistema francese prevedeva la descrizione dei terreni secondo categorie relative all'uso del suolo, a loro volta suddivise in classi di valore. Alla ripresa delle operazioni, avvenuta nel 1817, come atto ancora una volta necessitato dalla ripartizione della tassa prediale, che Ferdinando III stabilisce in quell'anno in 4.200.000 lire toscane, la definizione delle norme tecniche per la misurazione dei terreni viene affidata a una deputazione formata dai matematici Paoli, Ferroni, Frullani e da padre Indirano. Ma in questa deputazione troviamo anche Giovanni Fabbroni, già il direttore del Dipartimento Pont-Chaussée nella Corte francese dal 1810, Emilio Pucci e Laude Ricci, due rappresentanti della classe dirigente, chiamiamoli del gruppo dirigente. Pur riprendendo sostanzialmente l'impianto francese, la deputazione propone però di calcolare la rendita effettiva del fondo rustico non sulla base di una divisione dei terreni, classi di valori, ma sulla base del reddito netto di ciascuna particella alla data della promulgazione del catasto. In tal modo si intende, e lo si esplicita anche chiaramente nelle relazioni, soddisfare gli interessi della proprietà terriera, favorevole alla fissazione per lunga duratura della tassa stabilita nel 1817. Che verrà addirittura ribassata nel 1825. Tutto questo si iscrive in un assetto istituzionale che, abolite le prefetture e sottoprefetture francesi, richiama in vita le quattro camere leopoldine, affidando loro tutte le competenze che in epoca francese erano state centralizzate e anche valorizzate nella direzione del conto stato. Gli ingegneri, 12 in tutto, vengono di nuovo inseriti nei loro organici, con il compito di occuparsi dei lavori di ponti, fiumi e strade. È dunque la dotazione del catasto che rappresenta in questo contesto il vero elemento di novità e di continuità rispetto al periodo francese e garantisce, in continuità sempre con il periodo napoleonico, e garantisce la continuità per il periodo napoleonico, ma oltre a questo direi che riveste il significato di collettore di esigenze diverse, in qualche modo contrastanti. Da un lato quelle sempre dominanti dall'Italia del continente in poi della proprietà fondiaria che tendono a fondamentale conservazione, ma anche quelle, se vogliamo, modernizzanti, che rendono improcrastinabile un ridisegno complessivo del territorio a partire da un'istanza unitaria. Ed è infatti da questa deputazione che quasi al termine dei lavori di distribuzione particellare, che si fa bene, si verranno effettuati da geometri, da misuratori, non dagli ingegneri, provengono le più lucide sollecitazioni in ordine a una complessiva riforma dell'assetto territoriale. Una riforma che però riassume e mette in evidenza lo stretto legame tra l'aspetto istituzionale, quello amministrativo territoriale, quello economico e quello burocratico professionale. Tra il 1822 e il 1825 la deputazione, in particolare il suo direttore, Giuliano Frullani, lavorano intorno al segnale lavorano intorno alle proposte e condurranno il voto secondo di emanare, più o meno nel 1825, alcuni provvedimenti intimamente coerenti. Primo, una radicale riforma delle circoscrizioni territoriali e degli uffici di sovrintendenza amministrativa che corregge in senso marcatamente centralistico l'assetto del politico. Secondo, una nuova classificazione delle strade, anche questo non sempre particolarmente coerente nel tuo disegno, che introduce per la prima volta la classe delle strade provinciali. Esistono solo le regie delle unite. In terzo luogo, l'istituzione di una sovrintendenza per la conservazione del catasto e la direzione dei lavori di autostrade, così si chiamerà l'ufficio, la quale sovrintendenza verrà articolata territorialmente sulle camere di sovrintendenza comunitativa, suddivisa al loro interno in 37 circondari, ognuno di questi è sede di ingegneri. Quarta, l'istituzione di un corpo di ingegneri autostrade. Nello stesso giorno escono questi quattro provvedimenti e sono tutti frutto, diciamo, dell'elaborazione della deputazione del catasto. Dagli altri preparatori, soprattutto dal dibattito di quell'occasione corre tra Frullani e il segretario di Stato Corsini, più ancora che dai provvedimenti legislativi, dal testo, diciamo, dei provvedimenti legislativi, emergono con chiarezza sia le motivazioni politiche che gli elementi di continuità e di frattura con il passato. Tanto la proposta di sostituire i provveditori comunitativi l'opera e avviso in pubblico la paterna sovrana sollecitudine, che sia un di nomina regia e un fondimento istituito sul territorio, che quella di procedere a una ridescrizione territoriale ha nella relazione del Frullani un significato che va oltre, diciamo, il mero riassetto amministrativo e assume il valore di un superamento cosciente del sistema di governo dell'antico regime, che sempre nella definizione di Frullani è caratterizzato proprio da una giusta posizione di interessi corporativi separati. È in questa prospettiva che anche l'istituzione del corpo degli ingegneri assume il suo pieno valore e sarà presente infatti a tutti gli effetti una modalità di intervento statale nel processo di accentramento e razionalizzazione contro l'eccessiva autonomia concessa alle comunità e ai regolamenti produttivi. I tratti salienti di questo processo, che poi sono abbastanza probabilmente comuni ad altri in altre parti d'Italia, sono prima di tutto la costituzione di questo corpo come strutturato gerarchicamente. Il corpo fa capo infatti a una superiore autorità stabilita nella capitale, che è il Consiglio degli Ingegneri, il Consiglio d'Arte. Però è articolato sul territorio con queste articolazioni periferiche di tipo provinciale, modellate appunto sulle tante sovrintendenze. In secondo luogo, le denominazioni, figure che rivestono compiti amministrativi, in qualche modo si può dire l'esautoramento delle camere di sovrintendenza comunicativa in favore di una vocazione al centro, quindi nel corpo, Consiglio degli Ingegneri, del personale e dei compiti di controllo sui lavori pubblici. In terzo luogo, con il ridisegno del territorio in circondare compartimenti, che non è solo è prima di tutto, certo, una volontà di centralizzazione, ma è anche, credo, vada anche riguardato come un, come si può dire, un modo di attivare una forma di comunicazione più, più efficiente tra centro e periferia. Quindi una reciprocità anche in qualche modo, no? Quindi perché è vero, arriva il controllo nella provincia, ma arriva anche la cura, questa visione paternalista, arriva la cura del sovrano, insomma, delle comunità, soprattutto le più distanti. E di qui che il ruolo privilegiato è quello delle strade, in questo elemento, il nuovo rapporto con il territorio costituiscono proprio i canali di comunicazione. E infine la creazione di questo nuovo tipo di funzionari statali, i cui caratteri distintivi sono per Frullani duro. Essere il titolare di una nomina regia, possedere doti morali e giuste aspettative di cartella, mi sembra che siamo dentro, diciamo, un quadro ben conosciuto. Allora, nei suoi termini generali la proposta incontra il parere favorevole del Corsini, né Corsini, ma direi che più che le osservazioni favorevoli sono significative le note critiche che egli appone a questa relazione. In primo luogo, egli si esprime per un temperamento dell'eccessiva autonomia che Frullani sembra concedere agli ingegneri. Trova troppo tutto questo potere da tecnici, ha paura che la ragione politica ceda a quella tecnica. E spezza invece una lancia in favore di una qualche forma di salvaguardia dei diritti comunitativi. Non a caso, perché i diritti comunitativi sono in realtà i diritti dei possessori locali. Quindi non tanto dei magistratori, che secondo il libramento vuol dire che i magistratori sono espressione diretta dei possessori locali. Quindi uno è a favore dei diritti comunitativi e del potere di controllo da parte delle comunità e delle camere dell'operato degli ingegneri. La cosa buffa è che in questo dibattito tra Frullani e Corsini tutti e due fanno a gara a chi interpreta meglio e meglio richiama il modello francese. In epoca, siamo appena nel 22, 23, ecco, tutti e due si pongono come imitatori coscienti del modello francese, tanto che rimproverano l'uno all'altro, non aver capito bene come si fa in Francia. Corsini dice, beh, articoliamo, ci sono le prefetture in Francia, perché così non devono funzionare da noi le camere di sovrintendenza. E l'altro gli risponde, da noi le cose sono in modo un po' diverso. L'articolato è in realtà, insomma, in Francia il sistema, la procedura anche amministrativa è molto più veloce. Se noi interponiamo un ulteriore canale di controllo, finisce che non si fa più niente. L'altra cosa che preoccupa Corsini, anche questa molto significativa, è che nella procedura di affidamento dei compiti, la maggior parte dei lavori pubblici si fanno per l'affidamento dei compiti, vengono favoriti i possessori locali e non le compagnie di impresari. Questo perché, come dici, nel sistema della nostra economia rurale è non solo utile, ma necessario rilasciare ai possessori anche questo mezzo di impiegare le braccia dei loro lavoratori, che in molti anni si devono mantenere allo stese. La risposta del Frullani sarà, ma evitiamo anche il monopolio dei possessori, come di fatto si è verificato. Comunque, nel fomento di Corsini, quindi risentiamo ancora dominante la voce della grande città terriera, che grazie al rapporto mezzatrile trova la possibilità di utilizzare il lavoro contadino in tutti i mesi dell'anno a bassissimo prezzo e fare questa possibilità un elemento di conservazione dell'equilibrio sociale. E quante cose insomma, intervengono in questa riforma. Nella prospettiva di Corsini, come di gran parte dei moderati toscani, quindi possiamo identificare due aspetti principali. Prima di tutto la diffidenza nei confronti dei tecnici, dell'autonomia dei tecnici, a cui si preferisce comunque sempre un controllo tipo politico amministrativo. Poi una scelta di conservazione di fatto. Si preferisce consapevolmente chiudersi negli stretti limiti di un modello economico che Giorgetti definì a suo tempo di non sviluppo, pur di conservare intatti i rapporti sociali e le strutture produttive. E per questo si cerca anche di salvaguardare le autonomie locali. Quindi l'autonomia locale, questa salvaguardia dell'autonomia locale va letta in questa prospettiva, non tanto come sopravvivenza di volontà effettive dell'autonomia. Ecco che anche il ruolo sociale e istituzionale dell'ingegnere risente del contraddittorio intreccio di queste diverse spinte. Da un lato, infatti, è investito di compiti istituzionali rilevanti, agente principale dell'opera di centralizzazione amministrativa, dall'altro viene chiuso nella sfitta atmosfera di ristagno e conservazione imposta dal moderatore, che scoraggia l'investimento in attività industriali e quindi, togliendo spazio ed occasioni di impiego alla professione privata, mi conferma di fatto la prevalente finalizzazione pubblica, istituendo una sorta di circolo vizioso. Un'analisi quantitativa può aiutare a meglio definire i contorni dell'attività degli ingegneri toscani dopo il 1825. È innegabile che l'istituzione della soprintendenza del corpo abbia sulla professione un effetto successivo. Dai 12 ingegneri delle Camere si passa subito ai 37 dei circondari, cui vanno aggiunte 12 aspiranti che di fatto lavorano. Un aumento quantitativo cui corrisponde tra l'altro anche un sensibile miglioramento retributivo. L'ingegnere capo della Camera di Sovrintendenza Comunitativa prendeva 2.800 lire annue di stipendio. L'ingegnere direttore al massimo livello del dipartimento ne prende 4.200. E tu là, giustizia, quello che prende in più in realtà va nel fatto che lui può girare, fare visite, può pagarsi la cavalleria del cavallo e quindi ne va a beneficio d'ufficio, insomma, in qualche modo. Nel periodo compreso tra il 1825 e il 1834, anno in cui le mansioni relative al catasto vengono scorporate dalla direzione delle autostrade, la sovrintendenza si costituisce in direzione di lavori di autostrade, con a capo Alessandro Manetti. Alessandro Manetti è un ingegnere toscano che si è formato alle porte. Ecco, in questo periodo, dal 25 al 34, risultano complessivamente in attività 90 ingegneri. Di questi, 14 erano già attivi precedentemente, quindi sono diretti a formazione, 49 però entrano in servizio proprio nel 1826-27, quindi vengono reclutati attraverso questo concorso che si fa nel Dipartimento della Costruzione. 7 nel 1829, 4 nel 1830. Quindi c'è una specie di saturazione, ma in questi anni praticamente quasi si chiude un po' l'organo. Negli anni tra il 34 e il 48, cioè nel periodo di piena attività della direzione e fino alle soglie della riforma municipale e all'ulteriore rafforzamento della direzione con l'aggregazione delle competenze in materia di fabbriche civili nel 49, la direzione di acqua e strade diventerà di acqua e strade fabbriche civili, prenderà praticamente reiterate quelle competenze che erano dell'antico scrittore delle fabbriche, che erano perché sono gli architetti. Gli ingegneri impegnati in questo periodo, dal 34 al 48, sono 145. Di questi, 73 iniziano l'attività in questo periodo. Dal 48 al 60 sono invece 155, di cui 45 nuovi arrivi. Come si vede, il grosso delle nuove accessioni avviene proprio dal 34 al 48. Dopodiché c'è un decremento progressivo. In totale, su circa 240 ingegneri che risultano operanti in Toscana negli anni del 1808 e 1860, attraverso uno scoglio però solo delle fonti di costituzionale, gli almanacchi, i lavori pubblicati, e quindi di fatto probabilmente manchevoli nel servizio prima della sovrintendenza e poi per la direzione di arte sacra. Abbiamo detto del loro ruolo istituzionale, che si salda con quello del cancelliere, del controllo sempre più stretto delle comunità, sollevando tra l'altro polemiche roventi durante il dibattito sulla riforma municipale del 48, gli ingegneri saranno accusati di intromissione, dovranno difendersi con i livelli, poi questo forse rinsalda anche lo spirito di cuore. Resta però da rilevare un altro ruolo che potremmo definire straordinario, che finisce per assumere, soprattutto negli anni che abbiamo visto più intensi, cioè tra il 25 e il 48, il significato di un'investitura politica che in ultima istanza costituisce forse il veicolo di un più ampio riconoscimento sociale di corpo. E ci riferisco alle grandi opere pubbliche intraprese sotto il governo di Leopoldo II, come il bonificamento della Maremma, la regolazione idraulica della Val di Chiana, del Valtello Superiore, del bacino del Lombrone di Sano, l'apertura di ben 4 nuove strade transalpennine di varie provinciali, la sistemazione della cinta muraria del porto di Livorno, eccetera, per un totale di impegni finanziario dell'erario stimato da Manetti per il periodo dal 26 al 41 in 42 milioni di lire quest'anno. A questo complessivo progetto, che inaugura un diverso rapporto tra governo e territorio non più solo all'insegna del diretto controllo amministrativo, ma in effetti come intervento territoriale, un intervento quindi più complesso, gli ingegneri della direzione di autostrade partecipano non solo come consultori o controllori, ma direi come attivi soggetti proponenti. E Manetti in questo senso ne è veramente l'anima di tutto questo periodo. Nel riferire di questa attività alla terza riunione degli scienziati a Firenze nel 1841, il Manetti si sente autorizzato a istituire un legame di diretta conseguenzialità, diretta pendenza, tra l'istituzione del corpo nel 25, la realizzazione di queste opere e il pubblico benessere che si esprime nella crescita demografica e nella crescita dei tratti. Questa volta quindi l'accento non è più sul benessere che viene dalla terra, ma effettivamente viene da una circolazione maggiore, anzi addirittura si citano le società di escavazione, si citano i lavori di tipo si comincia insomma a citare anche i lavori di società che per esempio sono intento dalla costruzione di nuovi ponti, cioè quindi le associazioni capitali. Questa investitura che diciamo in questo progetto che gli ingegneri ricevono infatti e che soprattutto perché è ancorata a un ormai saldo ruolo istituzionale, costituisce forse l'elemento decisivo più significativo di influente nei confronti della professione, almeno in Toscana. Ma richiamo ancora una volta il problema a cui accennavamo all'inizio, cioè il rapporto tra professione, progetto politico, competenze tecniche, tessuto sociale, eccetera, e forse così direi consente, o almeno ci provo, una breve sintesi. Come dall'inizio praticamente alla fine il progetto politico e il progetto politico costituzionale, anche tipo così, amministrativo di Pietro Leopoldo, non aveva, come abbiamo visto all'interno del progetto, la figura dell'ingegnere non era tutto sommato né legittimata né probabilmente perché non mostrava di possedere quel carattere individuale di corpo tale da consentire il riconoscimento diciamo del ruolo sia sociale che professionale, tanto che il progetto riformatore Leopoldino, che sicuramente promuoveva l'impiego, ma finiva per non promuovere assolutamente l'autonomia nei confronti delle istituzioni, così come nei confronti delle figure professionali più amministrative. Ecco, direi che invece l'età napoleonica, più ancora la restaurazione, in quanto riprende le sollecitazioni, le spinte, diciamo, che così erano nate l'età napoleonica, conduce a termine un progetto che impone effettivamente al rapporto centro-periferia una decisa impronta centralizzatrice e inaugura una stagione complessivamente diversa, appunto, come si diceva, nelle relazioni tra governo e intervento territoriale. È qui che si identifica per l'ingegnere un ruolo centrale. Direi che, almeno in Toscana, proprio l'occasione offerta dal catasto a costituire il volano, diciamo, di questo cambiamento di prospettiva. Secondo me è proprio quella fase di devianza per l'elaborazione del perfezionamento del catasto, soprattutto delle intelligenze che ruotano intorno a questa operazione. Essa infatti consente a quelle figure di mediazione, se vogliamo, scientifico-istituzionali, sono i matematici, in questo caso, che hanno un ruolo istituzionale importante, quelli almeno coinvolti nella deputazione, di cui ricordo alcuni sono e hanno avuto un'esperienza diretta anche a livello del continente, proprio di questi. Ecco, consente a questi di saldare diversi aspetti, quello territoriale, quello burocratico-professionale, quello economico, in un solo progetto. tentato di stabilire, diciamo, una specie di equazione che, come tutte le equazioni molto semplici che sommare, non so, funzionano mai, diciamo, cultura tra progetto politico forte e maggiore o minore legittimazione della libertà personale, diciamo, a progetto politico forte, poi per forza appunto anche centralizzato, caso che interviene in modo influente, diciamo, ecco, sembra corrispondere almeno un certo figura professionale un decollo, soprattutto quando queste figure professionali fanno da, diciamo, da interpretano quindi un ruolo che dentro il progetto politico è funzionale. Tutto sommato, però, l'ambivalenza dei fenomeni storici insieme anche questo l'altro sospetto. Se è innegabile, riferisco naturalmente alla situazione toscana, che questo coinvolgimento e l'investitura di cui parlavamo dà luogo ad una sorta di reciproco riconoscimento tra l'ingegnere e il potere, naturalmente, è anche vero che così facendo la professione si lega alle sorte del progetto stesso e agli interessi così dell'assetto istituzionale che lo ha promosso, non sempre, come abbiamo visto, coincidenti con quelli in realtà della professione. E così istituendo una sorta di tutela che alla lunga mostra effetti regressivi, almeno in questo senso. Una conferma, per esempio, nel caso toscano arriva dall'osservazione dei modelli di formazione e di reclutamento, di cui faccio un breve accenno, perché ci sono dei punti molto complicati, sono alcune cose complicate, su queste comunque non era nel mio intento, diciamo, di entrare nel merito. Ecco, però va detto questo, che i canali di formazione e reclutamento continuano ad essere regolamentati nella situazione toscana in modo abbastanza anziano civico, dal centro in modo istituzionale, attraverso dei provvedimenti istituzionali. Per esempio, dal 1838 si decide che per l'ammissione al corpo venga richiesta la laurea in scienze matematiche applicate da prendersi a Pisa. Però fino allora non c'è nessuna regolamentazione di questo tipo se non un vero e proprio concorso. Nel 1845 si darà questo corso di studi, quello pisano, in relazione alla professione di ingegnere acquistata, con una configurazione precisa, cioè si organizza un vero e proprio piano di studi finalizzato al conseguimento del titolo valido per concorrere al corpo, una specie di piano di corso di laurea. Questo provvedimento però impone anche a laureati di seguire corsi di disegno e architettura presso l'Accademia delle Belle Arti di Pisa. Non solo, ma alla fine del corso di laurea, quando già sono laureati, devono fare altri 2 anni presso l'Accademia delle Belle Arti di Firenze, sempre per specializzarsi in disegno e architettura. E l'Accademia delle Belle Arti è un istituto che ormai ha perso qualunque legame con quella finalizzazione per le scienze utili di origine lorenese ed è ormai una scuola di reattiva. Ed è significativo, infine, che nel 1847 si lasci cadere la proposta sollecitata dall'ingegnere Giuseppe Potenti, uno dei pochi, tra l'altro, non incardinati negli uffici, di istituire all'interno dell'Accademia di Belle Arti una scuola di applicazione per ingegneri ferroviari. E questo, cioè, lasciare cadere questa proposta, è giustificato per 2 motivi. Per diffidenza nei confronti delle scuole di specializzazione. È più che sufficiente. I corsi di matematica applicata all'università, secondo relazioni che sono legate a questo progetto, e quindi c'è l'università si utilizza quella, e poi ecco, si dichiara esplicitamente, quanto più si specializza tanto meno ci si può, genericamente. Secondo, per diffidenza nei confronti dello sviluppo industriale. Nella relazione si dice la Toscana, siamo nel 1847, ha già troppe ferrovie. Da qui ai 5 anni che formiamo gli ingegneri saremo più che pieni, per cui non abbiamo bisogno assolutamente di fare una scuola di applicazione. Pensate che in Toscana la prima scuola di del 1904, credo sia una delle cose più tarde, diciamo, in Italia, sicuramente. Ecco, quindi queste 2 diffidenze, direi che per una volta chiamano la differenza che citavo all'inizio dei moderati nei confronti dello sviluppo industriale, per esempio, per il timore di modificazioni sociali, situazioni di manodopera, eccetera, e quindi richiamano quel blocco di interessi frenanti che di fatto toglie, almeno nell'immediato, la professione degli ingegneri altri sbocchi. E quindi anche giustifica e spiega, direi, il ritardo della realtà toscana nei confronti di molte altre realtà italiane, che direi che va in tutt'altro senso rispetto a quelle leggende auree che ho aperto nel tempo. Grazie, Diana Soprafondi, per già dei tempi di Pietro e l'Apostolo, che fanno gli studi, senso dei viaggi dei costretti, quei Pietro e l'Apostolo comunque non c'era questo riconoscimento, quindi in fondo il ruolo dell'ingegnere, ma appunto un'attenzione che cresce poi in età napoleonica, in un più forte napoleonica, come documentato da questo forte incremento degli ingegneri, sempre più coinvolti, sempre più legittimati e coinvolti nell'azione di controllo delle comunità. Tra l'altro ci sono anche dei particolari molto attuali, questo dibattito sul potere, sull'autonomia dei tecnici, oggi mi sembra molto